quello che tenevo in mano non è quel certo esemplare del giornale, è uno qualsiasi dei 10.000. Non è soltanto ciò che ho scritto io, è ciò che io ho scritto e che tutti leggono. Per apprezzare esattamente il fenomeno che si produce in quel momento nelle altre case, bisogna che io legga l'articolo non come autore, ma come uno degli altri lettori del giornale. Ciò che tenevo in mano non era soltanto ciò che avevo scritto, era il simbolo della sua incarnazione in tante menti. Così, per leggerlo, bisognava che io smettessi momentaneamente d'esserne l'autore, che fossi uno qualsiasi dei lettori del giornale. Ma ecco, subito, una prima inquietudine. Un lettore non preavvertito lo vedrà, questo articolo? Spiego distrattamente il giornale come farebbe il lettore non preavvertito, dando addirittura al mio volto l'espressione che avrei se ignorassi cosa c'è stamattina sul giornale e mi affrettassi a guardare le notizie mondane o la politica. Ma il mio articolo è talmente lungo che il mio sguardo, che lo evita per restare nel vero e non mettere il caso dalla mia parte, così come uno che sta aspettando conta apposta sin troppo lentamente, ne aggancia un pezzetto al passaggio. Ma molti di quelli che vedono il primo articolo, o anche che lo leggono, non guardano la firma. Io stesso non sarei certo stato in grado di dire di chi fosse il primo articolo del giorno precedente. E mi riprometto, adesso, di leggerli sempre. E anche il nome dell'autore. Ma, come un amante geloso che non tradisce l'amante per poter credere alla sua fedeltà, penso tristemente che la mia attenzione futura non costringerà gli altri a ricambiarla con la loro. E poi ce n'è che sono andati a caccia, altri che sono usciti di casa troppo presto, ma insomma qualcuno lo leggerà pure. Faccio come quel qualcuno. Comincio. Ho un bel sapere che molti, leggendo l'articolo, lo troveranno detestabile. Nel momento in cui lo leggo, mi sembra che quel che vedo in ogni parola sia lì sulla carta. Non posso credere che chiunque, aprendo gli occhi, non vedrà direttamente le immagini che vedo io, convinto, con la stessa ingenuità di chi crede che sia la parola medesima da lui pronunciata a camminare tale e quale lungo i fili del telefono, che il pensiero dell'autore sia direttamente percepito dal lettore, mentre è un altro pensiero che si viene fabbricando nella sua mente. Nel momento stesso in cui io voglio essere un lettore qualunque, la mia mente rifà il percorso di chi legge il mio articolo. Se il signor di Guermantes non capiva una certa frase che sarebbe piaciuta a Bloch, potrebbe in compenso divertirlo una certa riflessione che Bloch disprezzerebbe. Così, poiché per ogni parte che il lettore precedente sembrava trascurare, si presentava un nuovo amatore, l'insieme dell'articolo finiva con l'essere osannato da una folla e si imponeva la mia diffidenza verso me stesso, che non aveva più bisogno di sostenerlo. Il fatto è che col valore di un articolo, per quanto notevole sia, succede come con le frasi dei rendiconti della Camera, dove le parole «la vedremo» pronunciate dal ministro sono solo una parte e forse la meno importante della frase da leggere così. Il presidente del Consiglio, ministro degli interni e dei culti, la vedremo, dice, vive acclamazioni dall'estrema sinistra, bene, benissimo, da qualche banco a sinistra e al centro, conclusione migliore di quel che sta in mezzo e degna dell'inizio. Una parte della sua bellezza, ed è la tara originale di questo genere di letteratura, non eccettuati i celebri Landi, risiede nell'impressione che essa produce sui lettori. È una venere collettiva, di cui non si ha che un membro mutilato, se ci si attiene al pensiero dell'autore, visto che si realizza del tutto solo nella mente dei lettori. È in loro che si compie. E poiché una folla, fosse anche un'élite, non è artista, quest'ultima impronta che essa le conferisce ha sempre qualcosa di un po' ordinario. Così Sainte-Beuve, il lunedì, poteva figurarsi Madame Duboigne nel suo letto dalle alte colonne intenta a leggere il suo articolo del Constitutionnel, apprezzando una certa bella frase di cui lui s'era a lungo compiaciuto e che non gli sarebbe forse mai uscita se non avesse ritenuto opportuno infarcirne la rubrica perché risultasse di maggior effetto. Il cancelliere, che lo stava leggendo per proprio conto, ne avrebbe certo parlato alla vecchia amica che sarebbe andato poco dopo a trovare, e quella sera, accompagnandolo a casa nella sua carrozza, il duca di Noailles, in pantaloni grigi, gli avrebbe riferito cosa se n'era detto in società, se già non ne fosse stato informato da un biglietto di Madame d'Apouville. E, appoggiando la mia diffidenza verso me stesso su quelle 10.000 approvazioni che mi sostenevano, traevo dalla lettura fatta in quel momento tanto senso di forza e tanta speranza di talento, quanta diffidenza ne avevo tratta quando ciò che avevo scritto non si indirizzava che a me. Vedevo il mio pensiero, o in mancanza del mio pensiero, per chi non poteva capirlo, la ripetizione del mio nome e come una bellita evocazione della mia persona, brillare nella stessa ora su tante persone. Colorare il loro pensiero in un'aurora che mi riempiva di forza e di gioia trionfante, più dell'aurora innumerabile che nel medesimo istante si mostrava, rosa, a tutte le finestre. Vedevo Bloch, i Guermantes, le Grandin, André, Maria, gli amici estrarre frase per frase le immagini che vi sono racchiuse. E nel momento stesso in cui cerco d'essere un lettore qualunque, leggo da autore, ma non da autore soltanto. Perché la persona impossibile che cerco d'essere riunisca tutti i contrari che possono essermi più favorevoli, se leggo da autore, mi giudico da lettore. Senza nessuna delle esigenze che può avere verso uno scritto chi lo confronta con l'ideale che in esso ha voluto esprimere. Quelle pagine, quando le ho scritte, erano così deboli a paragone del mio pensiero, così complicate e opache a paragone della mia visione armoniosa e trasparente, così piene di lacune che non ero riuscito a colmare, che la loro lettura era per me una sofferenza. Esse non avevano fatto che accentuare in me il sentimento della mia impotenza e della mia incurabile mancanza di talento. Ma adesso, sforzandomi d'essere lettore, se scaricavo sugli altri il compito doloroso di giudicarmi, leggendo ciò che avevo fatto riuscivo, almeno, a fare tabula rasa di ciò che avevo voluto fare. Leggevo l'articolo sforzandomi di persuadermi che fosse di un altro, e tutte le mie immagini, tutte le mie riflessioni, tutti i miei epiteti, presi per se stessi e senza il ricordo dello scacco che rappresentavano per le mie mire, mi incantavano con il loro splendore, il loro imprevisto, la loro profondità. E quando avvertivo un cedimento troppo forte, rifugiandomi nell'animo meravigliato del lettore qualunque, mi dicevo: «Ma come può fare un lettore ad accorgersene? Sì, è possibile che ci manchi qualcosa, ma al diavolo se non hanno da essere contenti. Anche così di belle cose ce ne sono abbastanza, più di quello a cui sono abituati». Così, appena finita questa lettura confortante, ebbi subito voglia, io che non avevo avuto il coraggio di rileggere il manoscritto, di ricominciarla senza indugio, non essendoci niente come un nostro vecchio articolo di cui si possa dire che quando lo si è letto lo si può rileggere. Mi ripromisi di farne comprare altre copie da Françoise per darle agli amici, le avrei detto, in realtà per toccare con mano il miracolo della moltiplicazione del mio pensiero e leggere, come se fossi un altro signore che ha appena aperto Le Figaro, le stesse frasi in un'altra copia. Per l'appunto, non vedevo i Guermantes da un'infinità di tempo, sarei andato a trovarli e mi sarei reso conto, tramite loro, dell'impressione suscitata dal mio articolo. Pensavo a una certa lettrice nella cui camera mi sarebbe tanto piaciuto penetrare e alla quale il giornale avrebbe portato, se non il mio pensiero, che non sarebbe stata in grado di capire, almeno il mio nome, come un elogio della mia persona. Ma gli elogi decretati a quello che non amiamo non prendono il nostro cuore, più di quanto colpiscano la nostra mente i pensieri d'una mente in cui non possiamo penetrare. Mi dicevo però che per altri amici, se la mia salute fosse ancora peggiorata e non fossi più stato in grado di vederli, sarebbe stato bello continuare a scrivere, in modo da avere ancora accesso alla loro compagnia, parlar loro fra le righe, farli pensare a mio modo, piacergli, essere ricevuto nel loro cuore. Mi dicevo questo perché le relazioni mondane, avendo avuto fino a quel momento un certo posto nella mia vita quotidiana, un futuro in cui non figurassero più, mi spaventava. E quell'espediente che mi avrebbe permesso di trattenere su di me l'attenzione degli amici, forse di suscitarne l'ammirazione, fino al giorno in cui fossi stato abbastanza bene per ricominciare a vederli, era fatto per consolarmi. Mi dicevo questo, ma sentivo che non era la verità. Che se amavo figurarmi la loro attenzione come oggetto del mio piacere, questo piacere era un piacere interiore, spirituale, solitario, che loro non potevano darmi e che io potevo trovare non già conversando con loro, ma scrivendo lontano da loro. E se cominciavo a scrivere per vederli indirettamente, perché avessero di me un'idea migliore, per prepararmi una migliore posizione in società, forse scrivere mi avrebbe fatto passare la voglia di vederli. E della posizione che la letteratura mi avrebbe forse procurato in società, non avrei più avuto voglia di godere, perché il mio piacere non sarebbe stato più nella società, ma nella letteratura. Quando, dopo colazione, andai da Madame de Guermont, fu dunque meno per Mademoiselle de Porcheville, la quale aveva perso per via del telegramma di Saint-Loup il meglio della sua personalità, che per incontrare nella persona della duchessa una di quelle lettrici del mio articolo che mi avrebbero dato modo di immaginare i pensieri del pubblico, degli abbonati e acquirenti del Figaro. Del resto, non era senza piacere che andavo da Madame de Guermont. Avevo un bel dirmi che a differenziare per me quel salotto dagli altri era il lungo tirocinio che esso aveva fatto nella mia immaginazione. Conoscerne le cause non aboliva la differenza. Per me, d'altronde, di nomi Guermont ne esistevano parecchi. Se a quello che la mia memoria aveva registrato solo come in un libro di indirizzi non s'accompagnava alcuna poesia, i più antichi, risalenti al tempo in cui non conoscevo Madame de Guermont, erano suscettibili di riformarsi dentro di me, soprattutto quando era molto che non la vedevo e la luce cruda della persona dal volto umano non offuscava i raggi misteriosi del nome. Ricominciavo allora a pensare alla dimora di Madame de Guermont come a qualcosa che stesse al di là del reale, allo stesso modo che ricominciavo a pensare alla Balbec nebbiosa dei miei primi sogni, come se non avessi poi fatto quel viaggio al treno dell'1:50, come se non l'avessi mai preso. Dimenticavo per un istante di sapere che tutto ciò non esisteva. Così, come si pensa a volte a un essere amato, dimenticando per un istante che è morto. Poi, entrando nell'anticamera della duchessa, l'idea del reale ritornò. Ma mi consolai dicendomi che era lei, nonostante tutto, a costituire per me il vero punto di intersezione fra la realtà e il sogno. Entrando nel salotto, vidi la fanciulla bionda, che per 24 ore avevo creduto fosse quella di cui m'aveva parlato Saint-Loup. Fu lei stessa a chiedere alla duchessa di ripresentarmi a lei, e in effetti, da quando ero entrato, avevo l'impressione di conoscerla benissimo, ma la duchessa la dissipò dicendomi: «Ah, avete già incontrato Mademoiselle de Forcheville?» Io ero sicuro, invece, di non essere mai stato presentato a nessuna fanciulla che avesse questo nome, dal quale sarei stato certamente colpito, tanto esso era familiare alla mia memoria, da quando mi avevano fatto un racconto retrospettivo degli amori di Odette e della gelosia di Swann. Il mio doppio errore di nome Essermi ricordato de l'Orgeville come se fosse stato de Porcheville e aver ricostruito in Eporcheville ciò che era in realtà Forcheville non aveva in sé niente di straordinario. Il nostro torto è di presentare le cose quali sono, i nomi come sono scritti, le persone identiche alla nozione immobile che ci danno di esse la fotografia e la psicologia, mentre di solito non è affatto questo che noi percepiamo davvero. Vediamo, sentiamo, concepiamo il mondo tutto di traverso. Ripetiamo un nome come l'abbiamo sentito finché l'esperienza non rettifica il nostro errore, cosa che non sempre succede.